Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Abbiamo aperto la copertina dell'ultimo volume della settimana, il quinto, al cui interno trovate ovviamente come al solito tanta musica, ma anche la saga del Padrino giunta al suo secondo episodio e le parole di Andrea Camilleri. Ora come ora, i Zosimo se la passavano buona. Ma a 16 anni avanti, quando erano di Frisco maritati, Gisuè e Filonia la fame nivura avevano patito, quella che ti fa gliuttiri macari il fumo di la lampa. Erano figli e nipoti di giornatanti, e giornatanti essi stessi, braccianti agricoli stacionali che camminavano campagne e campagne alla cerca di travaglio a secondo del tempo dei raccolti, e quando lo trovavano, il travaglio, potevano avere la fortuna di mangiare per qualche semanata, per esempio una scanata di pane con la calatina, il companaticuca poteva essere un pezzo di cacio, una sarduzza salata, una caponatina di milanciani. Questo era l'incipit de Il re dei girgenti di Andrea Camilleri. Thank you. I don't understand. I don't have your brain for big deals. She was dancing so hard. She danced herself into a diamond, dancing all by herself, dancing all by herself, and not minding, doing the thing as she dreamed it. Starting tonight. Diamond dancer, diamond dancer, diamond dancer, diamond dancer, diamond dancer, diamond dancer. Non vorrei sbagliarmi, ma dopo una dozzina di dischi sotto il nome Smog, dovrebbe essere la prima volta che si presenta con il suo nome e cognome all'anagrafe, ovvero sia Bill Callahan. Quindi una sorta di nuovo esordio con un album Walk on a Whale Heart in uscita in questo mese di aprile 2007 per la Drag City. Bill Callahan, che ci siamo ascoltati in Eclettica con il brano dal titolo Diamond Dancer. L'Araldo di Montelusa, gerente Pasquale Mangiaforte, giovedì 20 marzo 1890. Il mortorio a Vigata. Ieri ci pervenne notizia dei preparativi che a Vigata fervono in vista della rappresentazione del mortorio, che avverrà domani, 21, giorno di Venerdì Santo, come tradizionalmente usasi ripetere da una ventina d'anni a questa parte. Alla rappresentazione, alla quale si darà comincio alle ore 3:30 del dopopranzo, assisteranno Sua Eccellenza Reverendissima il Vescovo di Montelusa, Boscaini Monsignor Angelo, Sua Eccellenza il Prefetto Tirirò, Grande Ufficiale Francesco, il Questore Bonafede Commendator Liborio, il Comandante la Guarnigione Busque Colonnello Emilio, il Comandante dei Reali Carabinieri di Montelusa Bosisio Capitano Arturo Carlo, il Comandante la Capitaneria di Porto Benvenuto Capitano Ortensio, il Sindaco Caruana Cavaliere Antonio e il Consiglio Comunale al completo. Questo era l'incipit della Scomparsa di Patò di Andrea Camilleri. You heard what happened in my home? Mike, I almost died myself, but it was all so relieved. In my home! In my bedroom where my wife sleeps! Where my children come and play with their toys. In my home. Siamo quasi alla chiusura della prima parte di Eclettica anche per quanto riguarda quest'oggi. Stiamo per arrivare al blocco pubblicitario che appunto separa la prima dalla seconda parte per chi ascolta via etere, per chi invece ovviamente si avvale del podcast in questo blocco pubblicitario non esiste. La settimana scorsa ci eravamo ascoltati dal nuovo album dell'artista bianco hip hop di nome LP, di pseudonimo LP, la sua collaborazione con Trent Reznor. È un intero album in cui ci sono parecchie collaborazioni interessanti. Per esempio, ce n'è una in cui lo vede assieme a Cat Power. Noi ce l'ascoltiamo. Si tratta di Poisonville, Kids No Wings. When the lies wild metal rail right. We're a marvel of engineering, steer me clear into the plight. Right before the bodega's open, after the peak of night, before the paper's delivered, I sat on the corner and sparked a light. The same corner I punched when I zone dropped on a block first. At almost 5 o'clock, watching for sunspots and store clerks. A lone spot, it was kinda like the zone was forgot. As if the grid had been reset and couldn't catch to the clock, or the stoop was stuck in the past a half minute. And I sat in it with a Lucy Noopy drift out of my lips, taste half minute. Come on. And I felt like $100 in the pocket of a gambling bust. So the wonder shows and flow with the droids of the structural luck. Future toyed on the run again. The sky green, the maroon is coloring. Laying against the blue tone from where the thunder lives. Here I was directly under it. Like some dejected little brain, they told to stay away from the mothership. Cotton ball in a blizzard of mischief from brain prison. With a thought that rode on the bus and came for conjugal visits. Fucked its way into my gray matter, the tattered territory. Stayed chatting and nagging till it demanded to yell for me. And I tried to hold the thing back, but the meditation was otherly. Fixated on what a friend said and relating it to my struggling. Dropping those boys, so to answer mothering. We were children of poison, and saw the seduction less repugnant. And reserved the right as a trigger man with a backup plan of self-destruction. Now touch the type of chemicals that could pull me towards that function. It's the stuff that I find hard for discussion. How the fuck do you explain your own self-destruction and still remain trusted? Come on. Answer the question, yes, the city wants you gone, and that's the only thing connecting us, but the connection is so strong, so how dare you assume that I sleep when you're dead? This is well outside the boundaries of acceptable behavior. I will not give you the go-ahead, and you will not be remembered fondly. I'm throwing down the gauntlet, fuck you, this isn't your decision, and for all the holy fuck I give, your little spectacle is ended, but don't think for just one second you've honored your obligations to me. I'm serious with my eyes, I don't find this funny, or whatever you imagine poetry and justice feels like when you combine them. I am not going without this on my watch, buddy, nobody's impressed with your imagined sacrifice device or insurmountable regret. You will not uniquely pain, and if you go, we won't be sorry. And who the hell are you to put me through the banality of watching this? Cause many better men have gone for clearly better reasons. And I strongly must remind you that you have not even been trying, and that's the only thing remarkable about you. Stop me if I'm lying. We are always outnumbered, but we were never out-militioned. There's no dignity for criminals, no ministry for the wicked. In this town, if you make a sound, you're the leper with the most fingers. A league of extraordinary nobodies, the other team's bringing in ringers. No faith in the majority, no hope for the little ones. Sally pulled a pistol out, Billy got a blunderbuss. So what the fuck are you feeling that makes your struggle so wondrous? Enough to arrogantly pull what's left of the rug out from under us. I think not, you in the same barrel all us other crabs are caught. And if I have to live, you have to live. Whether you like this shit or not, come on. Dedicated to the drowning and the noble futility of a desperate strength for